Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Molti conosceranno il parco etnografico di Rubano, appunto nella frazione di Bosco di Rubano, in provincia di Padova. Pochi forse sanno che in questo luogo particolare, dove tanti appunto possono essere passati per una scampagnata, esiste anche un forno promosso da due ragazzi, Michele Vitello e Jacopo Gaini, che grazie alla cooperativa Coisla di Padova funziona, e funziona in modo particolare perché vengono prodotti in un forno esclusivamente a legna pagnotte di varie tipologie, anche dei dolci, solamente con ingredienti biologici. Per saperne di più di questa esperienza abbiamo oggi con noi Michele Vitello, appunto uno dei due fondatori. Benvenuto. Grazie, benvenuto. Ecco, com'è nata questa idea? Voi non eravate panificatori, vi siete un po' inventati questa nuova attività da qualche anno fa. Sì, dunque l'inizio dell'attività risale a quasi 4 anni fa, al febbraio di 4 anni fa. Noi non eravamo assolutamente né panettieri professionisti né studianti panettieri, eravamo semplicemente come tanti panificatori domestici un po' appassionati di pasta madre, che da anni ci alimentavamo scegliendo prodotti biologici e con una certa filosofia di alimentazione. Per vari strani casi del destino ci è capitato di entrare in contatto con la cooperativa sociale Coisla nel momento in cui aveva da poco preso in gestione, assieme alle altre cooperative, il parco etnografico di Rubano. C'era la possibilità di usufruire di questo forno a legna costruito anni prima da volontari all'interno di altri progetti della gestione del parco, e ci siamo detti: perché non provare, vediamo cosa succede. Abbiamo iniziato con piccolissime quantità rivendute per lo più inizialmente parenti, amici, conoscenti, e poi piano piano abbiamo iniziato a contattare i gas, come il gas delle Acli, il gas di altri gas di Padova. Gas intendo i gruppi di acquisto solidale. Sì, gruppi di acquisto solidale, esatto. E poi via via, man mano, abbiamo iniziato a rifornire anche piccole botteghe del biologico, del commercio ecosolidale, altre piccole realtà più o meno organizzate. Insomma. Ecco, che caratteristiche ha questo pane? Il pane che produciamo è, per scelta iniziale, un pane prodotto con la pasta madre a fermentazione naturale, lenta e naturale. Visto il contesto del parco etnografico, ci siamo detti perché non riprendere in mano il pane come veniva panificato una volta, per restare dentro il tema del parco, delle tradizioni contadine. Allora abbiamo iniziato a panificare questo pane. Facciamo principalmente pagnotte da chilo, quindi un grande formato, cosa che non è usuale soprattutto nel nord Italia, e utilizziamo esclusivamente farina certificata biologica, sempre per rimanere in un discorso di alta qualità. E da quest'anno, dal settembre 2014, abbiamo iniziato a panificare anche la farina del grano che abbiamo coltivato noi in un campo poco distante dal parco etnografico, con l'idea un po' di cercare, ovviamente nei limiti del possibile, di provare a chiudere la filiera, cioè coltivare il grano, macinarlo in un mulino, piccolo mulino artigianale, e panificare noi le nostre farine prodotte. Diciamo che il risultato è stato molto buono e molto apprezzato dai nostri clienti. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sento che quest'aria voglia dirmi libertà, la sabbia carezza i piedi miei, solo per dirmi che non ci sei. Il sole splende, splenderà, e la rabbia mi passerà. Il buio cade su di me, ora non piango più per te. All'orizzonte se vedo le onde, tu non ci sei più. All'orizzonte, yeah, non ci sono ombre, tu non sei laggiù. Il rosso sole brucerà il ricordo che ho di te. Il rosso sole spegnerà la rabbia che provo per te. Più con la mia storia accompagnerò tutto ciò che rimane di me. Forse un giorno brillerà quando saprò qual è il perché, quando saprò la verità. All'orizzonte se vedo le onde, tu non ci sei più. All'orizzonte, yeah, non ci sono ombre, ricordo più di te. Il rosso sole spegnerà la rabbia che provo per te. Attimi tremendi, di qui non ti sorprendi. Le lingue della gente sono sempre più taglienti. Commenti potenti, quasi insofferenti, che stanno a giudicare tutti quanti i tuoi momenti. Ma nessuno sa cosa c'è al di là. Non ha mai capito niente, mai potrà. Questa storia qua, se mai ci sarà una vera, fino allora tutto si capirà. All'orizzonte se vedo le onde, tu non ci sei più. All'orizzonte, yeah, non ci sono ombre, tu non sei laggiù. Il rosso sole brucerà il ricordo che ho di te. Sento che quest'aria voglia dirmi libertà, la sabbia carezza i piedi miei, solo per dirmi che non ci sei. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del pane, ma in realtà di un pane particolare realizzato da Michele Vietiello e Jacopo Gaini del Forno del Bosco, all'interno del parco etnografico di Rubano. Dicevamo un po' la tipologia di questo pane, le farine appunto solo biologiche. Che tipologia fate? Solo pane non comune, pane di farro, pane olio? Abbiamo dunque più o meno 7 tipi di pane. Allora varia, il più richiesti sono i pani integrali di grano tenero, con i semi, senza semi, pane di farro integrale. Poi abbiamo il pane di varietà Senatore Cappelli, che è un grano italiano antico equivalente al più noto Camut. Abbiamo un pane classico di grano tenero bianco, e poi abbiamo una varia gamma di pani speciali, pane con la zucca, pane alle olive, pane all'uvetta. Quindi come un vero panificio siete a tutti gli effetti. Sì, di fatto sì, con i mezzi un po' limitati, ma la fantasia e la buona volontà, diciamo, ci hanno permesso di sviluppare tutta una serie di prodotti. Produciamo anche pizze focacce, alcuni dolci. Adesso a Natale abbiamo provato per il terzo anno a fare i panettoni. E insomma, sì. Qual è il pane più richiesto? Beh, quello che va per la maggiore è il pane integrale con i semi, e in periodo invernale il pane alla zucca. Come dicevo prima, anche il pane con la nostra farina, che chiamiamo pane multicereale, sta avendo un discreto successo. Ecco, c'è richiesta, perché è un pane, come abbiamo visto, un po' diverso da quello che si trova normalmente. Certo, rispetto, rispetto al pane che si trova normalmente nei supermercati o anche nei panifici artigianali, qui nel nord Italia è un pane un po' inusuale, nel senso che sono pezzature grosse perché sono tutte pagnotte da chilo, e è un pane, diciamo, mediamente più compatto, quindi meno arioso, e che si conserva per anche una settimana, 10 giorni, se ben conservato. Quindi, diciamo, quello che inizialmente spaventa un po' il cliente, magari sul prezzo e sulla quantità, poi una volta che il cliente conosce il prodotto apprezza il fatto che sta comprando una cosa che di alta qualità e di alta durata, insomma. Ecco, una delle cose, dei motivi per cui fosse nel nord Italia, perché effettivamente nel meridione si usa maggiormente usare pagnotte, è perché si pensa che, se si vuole il pane fresco, si pensa che questo magari poi ti rimanga là e si butti via. In realtà non è così. No, non è assolutamente così. Questa, diciamo, è una falsazione, diciamo, degli ultimi 50-60 anni, perché appunto nel mondo contadino il pane veniva cotto principalmente una volta alla settimana, se non meno, e si facevano qui su al nord il pan biscotto, nel sud Italia pani di grandi dimensioni, proprio perché doveva durare tutta la settimana e doveva sfamare famiglie numerose che avevano quello e poco altro da mangiare spesso. Quindi, diciamo, un po' ritornare a un concetto diverso del pane, che è una cosa che ha un sapore, un gusto e un valore nutrizionale elevato, e non più un accompagnamento, diciamo, vuoto a un pasto già pieno di altre cose. Ecco, dove si possono avere informazioni sulle vostre attività? Allora, o venendo direttamente al parco etnografico tutti i giorni, è aperto. Noi non siamo aperti tutti i giorni, però insomma informazioni si possono trovare anche al bar del parco, al ristorante del parco, in internet il sito www.parcodirubano.com.org. Va bene, basta cercare Parco di Rubano. Cercare Parco di Rubano su internet e si trovano informazioni. Io consiglio vivamente, anche se adesso non è la stagione migliore, una visita, perché siamo a 10 minuti dal centro di Padova, e oltre al progetto nostro, il forno, appunto, c'è anche un bar, un ristorante, e soprattutto c'è un bellissimo parco con un laghetto che consente di fare splendide passeggiate con la famiglia, di prendere il sole quando c'è e di stare un po' a contatto con la natura. Quindi un luogo da visitare dal punto di vista ambientale e un prodotto del tutto naturale. Grazie. Assolutamente. Grazie a voi. Concludiamo la trasmissione con le consuete notizie, anche perché abbiamo delle notizie interessanti questa settimana. Nonostante la piovosità eccezionale, la produzione lorda agricola veneta nel 2014 ha segnato un incremento del 2% rispetto all'anno precedente, il che corrisponderebbe a circa 5,6 miliardi di euro. La piovosità ha favorito una coltura come il mais, la coltura più diffusa nel Veneto, che nonostante la contrazione della superficie coltivata ha prodotto ben il 35% in più, raggiungendo i quasi 3 milioni di tonnellate, naturalmente provocando questo surplus un ribasso dei prezzi di circa il 16%. Continua invece a calare il numero di imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio del Veneto. Nei primi 9 mesi dell'anno scorso sarebbero scese a 66.000 circa unità, e anche gli occupati in agricoltura sono calati dell'8% a 61.500 unità. Tra le colture industriali, bene la soia con un nuovo record produttivo e anche la barbabietola da zucchero. Tra le colture energetiche, il girasole ha subito un notevole calo di superficie coltivata, al suo posto la colza ha registrato un cospicuo aumento di produzione. Infine, in campo orticolo, al calo di produzione di radicchio si contrappone la crescita delle patate. Il ceppo influenzale, cambiamo argomento, H1N1, conosciuto dal punto di vista mediatico come influenza suina, che sta circolando nell'ambito dell'influenza stagionale anche nel Veneto, non ha alcun collegamento con la carne di maiale. Lo precisa l'assessorato regionale all'agricoltura, che sottolinea come l'Istituto Zooprofilattico di Padova e del Veneto abbia infatti assicurato che questa patologia non è trasmessa dal suino all'uomo, semmai allo stato attuale potrebbe essere il contrario. I consumatori di carne di maiale possono quindi continuare a includerla nella propria dieta senza alcun genere di pericolo. Infine, il 13 gennaio scorso il Parlamento europeo ha dato il via libera al testo di accordo raggiunto nelle scorse settimane tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sulla riforma della direttiva in materia di OGM, gli organismi geneticamente modificati. Questo nuovo accordo sancisce il diritto degli Stati membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo per motivi di natura economica e agricola. È un successo della presidenza italiana, ha dichiarato il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che ha aggiunto che l'Italia rinnoverà il divieto di coltivazione del mais MONS 810. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.